Napoli Futura. Ci troviamo a Napoli nel 2027 e la camorra ha preso il sopravvento. Il pizzo richiesto è diventato eccessivo e i debiti stanno causando tante morti tra i negozianti. Le armi in mano ai minori aumentano, sono loro stessi a minacciare le persone per ottenere popolarità e qualche sfizio di loro piacimento. In questi ultimi anni sono morti tanti giornalisti, politici, lavoratori e lavoratrici oneste. L'ultima inchiesta giornalistica ha portato in luce un traffico di sigarette di contrabbando, al cui interno una percentuale pericolosa di droga, per stordire fino alla morte lo sballo tra i giovani. Le rapine e gli omicidi sono oramai all'ordine del giorno. Un ingegnere di Recale, Valerio Manti, insieme al suo equip di scienziati, stanno progettando degli occhiali provvisti di microtelecamere. L'obiettivo è quello di fornirli in Campania ai cittadini vittime di racket, di prevaricazione e di ricatti di ogni tipo. Si spera che nel futuro Napoli cambierà e che questi delinquenti vengano presi, processati e arrestati. In una gelida sera invernale, Antonio aveva appena terminato il suo giro di ricognizione. Era diretto verso casa per scrivere un articolo utile per le sue indagini. Quella sera, mentre stava in auto, si accorse che davanti a lui c'erano due ragazzi su un motorino. Uno di essi aveva una strana borsa nera. Ad un certo punto il motorino si ferma in un parcheggio. Antonio iniziò a insospettirsi e a pensare che stessero aspettando qualcosa, o meglio, qualcuno. Lui però decise di far finta di niente. Poco dopo, mentre continuava a guidare verso casa, si accorse che i ragazzi lo stavano seguendo. Non aveva molte scelte, era consapevole di trovarsi in pericolo, però decise di fermarsi e di parlare con loro. Appena scese dalla macchina, iniziò a domandare perché lo stessero seguendo. I due ragazzi cacciarono una pistola e iniziarono a minacciarlo. Antonio non si fece prendere dal panico, sapeva gestire queste situazioni. Era abituato ad avere a che fare con esponenti della criminalità. Dopotutto, le sue indagini sotto copertura lo avevano portato a vivere con criminali senza scrupoli. La situazione degenerò. Antonio sapeva che l'unico modo per salvarsi era chiamare una pattuglia. I due malviventi diventarono sempre più aggressivi, avevano avuto la soffiata che Antonio era un poliziotto. Lui provò a calmarli, a convincerli del contrario, ma era certo che non sarebbe sopravvissuto, quindi con molta naturalezza si toccò gli occhiali che aveva al volto. Si girò verso la porta della sua auto e provò a rientrare. Purtroppo i ragazzi gli piantarono un proiettile alla nuca. Questo proiettile lo fece morire all'istante e il suo corpo fu trovato da dei passanti pochi minuti dopo. La pattuglia di polizia riuscì a risalire ai camorristi attraverso l'attivazione dei suoi occhiali. Alcune settimane dopo la morte di Antonio furono trovati tutti i fascicoli su cui puntava i segreti delle organizzazioni criminali. I loro volti furono catturati grazie all'invenzione degli occhiali. Grazie al suo operato furono prodotti altri occhiali e furono dati in dotazione a coloro che portavano alla luce i crimini della camorra. Grazie al sacrificio di Antonio, la città ha avuto l'opportunità di riqualificarsi e di poter cominciare a liberarsi dalla criminalità. Per questo il poliziotto non verrà mai dimenticato. Napoli 2040. Un giorno durante un lungo pomeriggio estivo, Gennaro passeggiava per assaporare la brezza marina che gli rinfrescava la calda fronte. Da quando la camorra fu sconfitta, gli rallegrava vedere i bambini giocare sul lungomare, felici e tranquilli. Guardandoli, si ricordava di quando, con la sua famiglia, faceva passeggiate e non vedeva nessuno. Alzando gli occhi al cielo, si rese conto che le luci del tramonto splendevano sulla spiaggia. Pensò all'intervista del giorno seguente e decise di tornare a casa per cenare e riposarsi con serenità. Arrivò il giorno, si lavò, si vestì e si diresse verso la sede giornalistica, dove avrebbe raccontato in diretta TV la sua avventura. Sono Gennaro Esposito e oggi, per la Giornata Nazionale delle Vittime della Mafia, racconterò di come questa minaccia sia finita. Tuttora in solo il 2027, quando il tasso dei negozianti ai quali veniva chiesto il pizzo era diventato troppo alto. Le famiglie non riuscivano a pagare i propri debiti e molte volte venivano uccisi per via della camorra. La polizia decise allora, con l'aiuto di alcuni scienziati fidati, di creare occhiali speciali che registravano video e foto e inviavano messaggi alla polizia quando c'era un pericolo. Questo esperimento fu fatto dal poliziotto Antonio Esposito, nonché mio fratello, che è morto per un'indagine portata avanti da lui, sotto copertura. Grazie al suo lavoro, consegnò alla polizia e alla giustizia video e foto di luoghi e persone appartenenti alla criminalità organizzata. Sfortunatamente, come sappiamo tutti, fu assassinato da due ragazzi in sella a un motorino. Antonio non sapeva che gli stavano facendo un agguato. Quando lo capì, attivò gli occhiali e mandò un segnale di soccorso, ma soprattutto una prova fotografata dei due assassini. Gennaro sospirò e poi riprese a parlare. Questo metodo fu molto utile per aiutare un commerciante in condizioni disastrose. Questo commerciante rifiutò di pagare il pizzo e venne minacciato dai camorristi. Allora fu inviato un segnale alla polizia che riuscì ad arrestarli. Grazie a questo successo tecnologico, questi occhiali vennero dati anche ad altri commercianti, che furono salvati a loro volta. E si riuscì ad arrestare tutto il clan, compreso il boss Benito Tammaro. Questo commerciante, il primo salvato, decise di diventare giornalista per parlare e combattere le ingiustizie, per ricordare a tutti quello che è successo. Quel commerciante sono io. Questo podcast è stato realizzato dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Marigliano per il progetto Onda Pazza, il filo della memoria. Onda Pazza, il filo della memoria è un progetto che si propone di creare momenti di riflessione e divulgazione sul tema della legalità e della memoria, coinvolgendo 35 scuole di 7 regioni. Onda Pazza, il filo della memoria. Un progetto di Teatro di Eventi, Emilia Romagna, realizzato nell'annualità 2023-2024 in collaborazione con FNAS, Federazione Nazionale delle Arti in Strada, Stalker Teatro e Crab Teatro, Piemonte, Teatro Invito e Pandemonium Teatro, Lombardia, Emiliano Valente, Emanuele Di Giacomo, Valentina Virgili, Lazio, Pro Positivo, Sardegna, Teatri in Gestazione e Baracca dei Buffoni, Campania, Genia Labart, Sicilia, Consulenza Scientifica e Progetto Video a cura di Caracò, iniziativa realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.